Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un saluto da Maurizio Melis. Questa sera torniamo ad occuparci di efficienza energetica negli edifici, soprattutto negli edifici storici. Come sappiamo, la prima regola consiste sempre nel migliorare l'involucro. È solo in un secondo momento, quando cioè si è ridotto il fabbisogno energetico dell'edificio, si dovrebbe procedere a modificare gli impianti. Proprio il miglioramento dell'involucro però non è cosa facile, soprattutto quando si interviene su un edificio che non è nativo ad alta efficienza. Si va inevitabilmente anche a modificarne, come dire, gli equilibri, il modo in cui assorbe e cede calore all'ambiente, il modo in cui scambia umidità. Inoltre possono essere presenti vincoli paesaggistici oppure vincoli artistici, o magari l'edificio ha delle superfici di contatto con altri edifici, una cosa che succede spessissimo nei centri storici. Tutte queste situazioni rendono più difficile intervenire con il cosiddetto cappotto. Insomma, in molti casi può essere preferibile ricorrere a una soluzione più leggera. Ne parliamo con Daniela Petrone, vicepresidente di ANIT, l'Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico. Buonasera Petrone. Buonasera. Ciao. Allora, noi stiamo parlando quindi dei cosiddetti termointonaci. Che cosa sono? Allora, partiamo con una definizione. Il termointonaco è la malta per muratura che ha delle buone caratteristiche isolanti. In sostanza, la malta si ottiene, è un conglomerato che ha all'interno legante, acqua e inerte. L'inerte classico viene sostituito con degli aggregati che sono più leggeri, tipo perle di polistirene espanso, oppure argilla o altri perlite e così via. Esatto. Al posto della ghiaia o della sabbia che si usano di solito. E c'è anche l'aggiunta però di additivi, perché attraverso questi additivi cellulari ho delle bolle d'aria all'interno dell'impasto e quindi aumento il potere isolante grazie al fatto che l'aria di per sé ha un elevato grado di isolamento. In pratica il trucco consiste proprio nell'inglobare più aria possibile dentro a questo impasto. Unita a questi aggregati che hanno comunque, le perle di polistirene espanso hanno una conducibilità molto bassa. Perché contengono a loro volta aria, eccetera, eccetera. Esatto, no? sì. Tra l'altro, ecco, diciamolo, non si tratta così di mescolare invece di un po' di ghiaia, un po' di argilla. Cioè vengono fuori dai laboratori le mescole. Esatto, esiste una normativa di riferimento anche in questo, è una specifica normativa UNIEN. Questa normativa definisce proprio i metodi per determinare qual è il grado di isolamento di questo tipo di materiali e lo fa fornendo dei dati che sono sia di laboratorio, quindi del prodotto a secco, ma anche poi dicendo come occorre correggere quel dato che è di laboratorio rispetto alle condizioni poi di esercizio. E qui il progettista deve essere bravo nel ricondurre sempre il valore da utilizzare in fase di progetto in maniera diversa rispetto a quello che Insomma, viene fornito dal produttore. C'è questo problema che è lo stesso che continua a riemergere nell'efficienza energetica degli edifici, che non basta utilizzare un hardware che funziona, ci vuole che le persone che costruiscono questo edificio abbiano delle competenze ben precise nell'utilizzare dai serramenti alle malte, eccetera, eccetera. Direi tutti i soggetti coinvolti nel processo devono essere formati. Il costruttore a chi fa la posa in opera. Assolutamente. Perché è fondamentale, altrimenti si resta legati a un dato che poi non è quello che è la prestazione. Che diventa solo effettiva. Teorico. Certo, sì. Certo. Ecco, quali sono però i vantaggi, gli svantaggi, le differenze rispetto a un normale cappotto, insomma, che però è un'operazione in cui in gioco ci sono degli spessori notevoli, eccetera, eccetera. Esatto, sicuramente col cappotto andiamo ad agire con spessori che variano dagli 8 ai 10 centimetri, ma anche superabili. Ecco. Certo. È chiaro che un cappotto è un pannello, quindi sostanzialmente un pannello caratterizzato da una certa densità, quindi rigido. Rispetto all'isolante invece, al termointonaco, io posso invece agire su delle superfici dell'involucro che non sono perfettamente planari, il che mi permette appunto di intervenire su edifici storici, edifici esistenti, che sono stati soggetti al tempo e agli assestamenti anche strutturali che quindi non garantiscono questa planarità. Ecco, è corretto dire che in qualche modo questi termointonaci in alcune circostanze possono anche rispettare maggiormente come dire, la natura dell'edificio, non solo dal punto di vista estetico ma proprio anche costruttivo. Su un edificio in pietra funziona meglio il termointonaco o il cappotto? Perché poi spesso si hanno muffe e quant'altro. Oddio, in merito alla traspirabilità dei materiali e delle pareti, occorrerebbe fare una precisazione chiave. In teoria l'edificio non traspira, cioè non respira dalle pareti, confrontandolo con il corpo è come se io volessi respirare con la pelle in sostanza, sì, e non col naso. Quindi sicuramente un cappotto ha i suoi vantaggi, perché ce li ha soprattutto sull'isolamento. In base al materiale che scelgo, il cappotto posso avere una maggiore o minore permeabilità al vapore. Di certo questi materiali hanno di buono, di base, tutti, un'ottima permeabilità al vapore. Ecco, qual è l'impatto sull'efficienza dell'edificio? Cioè, questi termointonaci hanno un valore di isolamento consistente, significativo? Direi che la conducibilità di questi termointonaci è inferiore allo 0,1 watt su un metro Kelvin, che vuol dire, per farle un esempio, rispetto ad un cappotto in polistirene espanso, la conducibilità del polistirene espanso è 0,031, quindi sostanzialmente è la metà. Questo vuol dire che i termointonaci hanno delle prestazioni meno efficienti rispetto ad un pannello isolante, però le ripeto, il vantaggio è grosso nel momento in cui io non posso andare ad intervenire con un pannello, e quindi in edifici storici, in strutture in cui gli spessori non mi consentono di andare fuori, diciamo, un certo i 2 centimetri che sono i spessori base dell'intonaco. Allora, a quel punto, dovendo rifare l'intonaco normale, io vado ad agire invece con un termo isolante. Ecco, la differenza a proposito tra un intonaco normale e un intonaco termoisolante in termini di costo, qual è? Direi che se dovessi andare ad intervenire su un edificio storico rifacendo l'intonaco, a quel punto il costo di base, che è il ponteggio, la manodopera, e il costo di base del materiale resta sempre. C'è quel quid in più legato al fatto che, appunto, avendo delle caratteristiche isolanti, il materiale stesso, l'intonaco, costa leggermente di più. Va bene, grazie Daniela Petrone. Grazie a lei, buonasera. È tutto, a domani.